Tenna sorte, e osso fare differenza. Sarà, sarà, sarà, quel che sarà, non pensare, non pensare. Quando già questa massa va, al mio fuoco

sospiro. Ma mi canta, mi innamora, mi innamora. Ma conviene dissimular, ma conviene dissimular. Ma mi canta, mi innamora, ma conviene dissimular. A che pezzo la solitudine, ma conviene dissimulare, ma conviene dissimulare. Maltrattata dalla sole, condannata alle Mr. Spice, don't die! Mr. Spice, don't die! Thank you. Abbiate compassione dell'innocente, io non ho fatto niente. Ma spiegati, cos'hai? Mi corre dietro quell'amico del padre. Capisco, è questa la cagion del tuo spavento. Forse il pavino al ceri è un complimento. Eccolo, ahimè. Non dubitare, e vieni d'ordine mio per onorarti. Io voglio mostrare quanto mi cara tuo nipote. Perciò t'ho nominato mio grande Caimacan. Grazie, obbligato. Il mal da me,

ancora si fa, sono le mogli fra noi, quelle che formano i mariti. Or su, fate mio mondo, in questa stanza ritiratevi. E poi vedrete come un sta fare del zar la testa. Che spirito ha costei, qual donna è questa? Voi restate, a momenti ei sarà qui, finiamo di avviarci, che gli venga. Oh, se viene, or tutta l'arte a me adoprar conviene. Questo velo è troppo basso. turco caro, già ci sei, un colpetto mi di cascata, turco caro, caro, caro, caro, caro, un colpetto, un colpetto, un colpetto di cascata, turco caro, caro, caro, caro, caro, un colpetto, un colpetto, un colpetto di cascata. Oh, che colpa è mai costretto? Turco caro, già ci sei, già ci sei, già ci sei. Sale un uomo che mi va. Un colpetto, un colpetto, un colpetto di cascata, turco caro, caro, caro, caro, caro, un colpetto, un colpetto, un colpetto di cascata, turco. Io non resisto più. Questa Isabella è un incanto. Io non posso più stare senza di lei. Andate e conducetela. Senti, Caimacan, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. Ma Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo sei giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Ti presento di mia madre. Per Taddeo, Caimacan, ti presento, per Taddeo, Caimacan. Faccio apprendi quanta stima di te faccia Mustafa. Faccio apprendi quanta stima faccia di te faccia Mustafa. Due giocheri in

pappatati. Siamo là, che ne parli? Le italiane son cortesi, nate son per farsi amar. Italiane son cortesi, nate son per farsi amar. Ma intorno a miei paesi anche questa è la condanna. Le italiane son cortesi, nate son per farsi amar. Vi prego, mappataci e attator. Fra gli amori e le bellezze, fra gli scherzi e le carezze, de dormire e poi mangiare, mappataci de mangiare, mappataci de dormire. Bella vita, con che piacere, or di più non so cantare. Gli scherzi e le bella vita, amore, che piacere, thank you. affido a voi. Ma già fra poco io spero, senza rischio e contesa, di trarre a fin la meditata impresa. Perché ridi da Deo, può darsi ancora che io mi rida di te. Tu impallidisci, schiavo gentil, ma se pietà direste il mio periglio, il mio tenero amor, se parlano al tuo cuore, patria, dov'è? Oh,

madre e l'amore. Dintolo, che sento, questo è un tradimento. Campati, urlati, ne siamo, signor, ne siamo tornati, signor. Io son pappataci. Ma quei? Mangetaci. Ma voi? Lascia far. Ma io? Lascia dir. Poi me, che ho da far? Poi me, che ho da far? Restare o partir? Restare o partir? Del palo, se resto, se parto, il lampione, l'intolo, Isabella, son qua con le buone, a tutto l'adatto, non so più che dir, a tutto l'adatto, non so più che dir. 歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。